Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, è la giornata mondiale della felicità. Felicibumta. Ti piace? Non ti metto Felicità di Romina Albano perché sennò viriamo subito nella giornata mondiale di qualcos'altro. Sì, esatto. Invece Chuck Berry. Hey down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. Se ne vanno i grandi. 90 anni, ma no, ma grandi perché? Perché Chuck Berry è una figura fantastica per chiunque abbia avuto una vita difficile, perché oltre a entrare nella grande storia del rock con un grande rispetto di musica country, lui è entrato e uscito dal carcere, soprattutto nella vita, dal 44 quando fu arrestato la prima volta fino a quando l'ultimo ristorante della sua vita lo hanno beccato che c'aveva la telecamera nei cessi per riprendere tutte le clienti, cioè uno è andato in galera per stupro di una 14, le donne lo hanno distrutto, era proprio irrimediabilmente incapace di astenersi dal sesso. I bravi e dannati all'epoca andavano molto. Devo ammettere, una figura. E poi a questa mitico passo del cantare con la chitarra, quello che si chiamava il duck walk, l'ha inventato lui, con le ginocchia all'interno che sembrano collassare, e non sono certo il metodo da suggerire per chi ha l'artrosi. E vabbè, dai, secondo me così onoriamo più la giornata della felicità con Chuck Berry che ci ha lasciato, ma la sua Johnny B. Goode e tanti altri. Era rock and roll. Sì. John Lennon, ricordo, che disse: il rock and roll potrebbe essere chiamato in un altro modo, Chuck Berry. Vabbè, ma è così. Se pensi che una canzone come Carol, che si è inventata, è diventata un cavallo di battaglia di decenni e decenni, no? Anche quella l'hanno fatta poi i Rolling Stones. Insomma, vabbè, questi sono pezzi del cuore che se ne vanno. E mi piace ricordare che magari tutte le sue carcerazioni, problemi eccetera eccetera, un presidente, il mitico pastore Battista Carter, disse: no, tu devi suonare la Casa Bianca, altrimenti la mia presidenza non ha senso. Ecco, persone capaci di affermazioni di certo livello. Allora, adesso io lo so che tu dici oggi, adesso i santi, ecco adesso, ma è così incredibile, ragazzi, per chi non lo sapesse, non sussultate, non mi correggete, oggi è San Giuseppe, perché San Giuseppe in teoria è 19, ma in realtà da quando il decreto della congregazione del culto è capitato pochi anni fa, ha fissato che quando ci sono le domeniche di Quaresima o di Avvento, le festività liturgiche di un certo tipo si spostano lunedì dopo. Quindi anche se San Giuseppe è il 19 marzo, come sanno tutti, in realtà è oggi che si ricorda San Giuseppe. Quindi, e allora auguri a tutti i papà anche oggi. A tutti i papà anche oggi, a tutti gli operai, gli artigiani, i commercianti e a tutti, insomma, quelli di incerta paternità, perché oggi è la loro festa assoluta. Certo, questo senza mancare di rispetto ai santi tradizionali del vento, Alessandra del Venti, cioè Santa Alessandra di Amiso, Sant'Archippo, che era discepolo di San Paolo e tutti gli altri, soprattutto San Giovanni Nepomuceno, che a me è sempre colpito perché si chiama Nepomuceno perché era un boemo, e Nepomuc era la città da cui era nato, e un giovane sacerdote che tanto nella Praga dell'epoca, stiamo parlando della Praga del 300, del 1300, era diventato confessore della regina Giovanna di Baviera, e il re Venceslao era lividamente geloso della moglie e continuò a chiedere al confessore della moglie, appunto Giovanni: tu mi devi confessare quello che lei ti dice in confessione. E lui tanto fu energicamente duro nel dire no al re, che il re disse: uccidetelo, e fu annegato nella Moldava. E questo secondo me è uno dei simboli, mi ha sempre colpito, perché insomma, fedele al sacerdozio fino a dire: non mi importa, caro re, tu mi potrai dare tutti i re, le ricchezze, ma io rimango fedele alla mia missione, e per questo giustamente secondo me è diventato santo. Allora, che altro ricordare oggi? Fare gli auguri a Antonio Bassolino, E nel 1916, oggi, veniva pubblicata la teoria della relatività generale, estendendo, Einstein estende sugli annali della fisica l'anticipazione che aveva fatto nel 1905 e in successivi articoli da quel momento in poi, con la famosa formuletta energia uguale massa MC per al quadrato. Esatto, la velocità della luce. La sappiamo tutti così, però poi spiegarla non è perché è unire massa, energia, spazio e tempo, diciamo, facciamo un po' pugni con la fisica newtoniana, per così dire. In ogni caso, qui quando sono le 8:25 minuti diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Caro Oscar, oggi parliamo come di tanti argomenti come sempre, ma anche di scuola. Vogliamo tornare a parlare di scuola. Io lo so che Oscar ha colpito, sì. Abbiamo un po' discusso venerdì su questo. È vero. Di questa insegnante di Oristano che pare dividesse la classe in asini e intelligenti. Da una parte gli asini, ai quali non voglio spiegare nulla, tanto voi siete asini, rimanete lì anche spalle contro il muro, se possibile, anzi faccia contro il muro. Intelligenti invece, allora è stata accusata di avere dei metodi, a mio modo di vedere, abbastanza brutali. Invece Oscar dice, bene, oh finalmente no. Io innanzitutto ho detto che non mi fidavo degli eccessi della sintesi giornalistica, perché conoscendo come siamo fatti, una semplicemente insegnante energicamente severa nel esigere l'apprendimento, magari viene dipinta con qualche esagerazione, asini o insulti. Questo. No, il problema era se rigore sì o rigore no. Questo è il punto vero. Era un insegnante della Juve. Non mischiamo il sacro e il profano, perché sai che su questo. Ma no, rigore va bene, cioè nel senso la severità, la durezza, anche il premiare i migliori e magari dire a quelli meno bravi, no, con energia studiate di più. Però messa così era proprio, li divideva in asini, faccia contro il muro, perché non meritevoli di ascoltare e partecipare alla lezione. Io lo so che dunque, allora ognuno si porta dietro, come ti ho detto anche venerdì, la sua storia. Io nel mio quartiere devastato dell'epoca, cioè gravato da fortissimi problemi di integrazione sociale eccetera eccetera, cioè tutti dicono sugli immigrati che vengono dall'estero, ecco, il problema era tale quale con gli immigrati italiani, ed era così sto parlando di Mirafiori Nord, primissimi anni 60, e con gente in quinta elementare che aveva 14 anni, per intenderci, che non parlavano, non scrivevano una parola di italiano, insomma, problemi seri. Io devo gran parte del niente, la voglia di leggere libri e essere curioso incessantemente, ed essere con interesse a cavallo di tante materie, al fatto di aver incontrato insegnanti che erano capaci... Sì, di una durezza che oggi li porterebbe a essere pubblicati sui giornali. Guarda, Oscar, però io ho fatto i salesiani alle medie e c'era un mitico Don, non nominerò il cognome, che bocciava, nel senso che giocava a bocce, non bocciava, bocciava. Ops. Aveva un bel mazzo di chiavi pesante e ai distratti faceva, bocciava e beccava sempre sulla testa, nel senso che bocciava al terzo banco, vum, partivano le chiavi. Ma tu capisci che oggi sarebbe denunciato e perseguito? Certo, ovvio, e ti piombavano immancabilmente. E invece sulla tu lo nuca. Ricordi con affetto e positività o no? Lo ricordo con un metodo, ecco, adesso non lo so, sicuramente, cioè, così imparavi che bisognava stare attento, no? Però lo imparavi con un mazzo di chiavi sulla testa. Chiavi. No, ma io non voglio. Adesso io lo so in ascolto, adesso ci dicono: ah, siete dei nostalgici dei tempi della frusta, della prima rivoluzione industriale. No, però detto questo, non vorrei che. Secondo me si è passati all'esagerazione opposta. Ecco, su questo sì. Lorenzo Nespoli ci fa sapere che il suo professore faceva le verifiche di serie A e le verifiche di serie B, che era un metodo un po' stile asini e. È intelligente, cioè. E tu, Lorenzo, in quali eri in genere di verifiche? Serie B, ecco, Lorenzo Nespoli era in serie B. Però tu dici, Oscar, siamo passati troppo al lassismo adesso, forse, no? Al non rispetto degli naturalmente, insegnanti. Naturalmente non c'è genericità che tenga, nel senso che bisogna parlare del metodo seguito da ciascuno in ogni scuola e così via. Io penso che i nostri insegnanti oggi avrebbero i carabinieri. E credo che non li meritino, ecco, invece non li meriterebbero allora, dove i tempi erano diversi, ognuno si relaziona a un contesto, ma non lo so, io giudico per gli effetti che ho visto esercitare in contesti, ripeto, difficilissimi, in cui purtroppo c'era una violenza diffusa, non so come dirti, ecco, c'era una violenza diffusa e quindi anche l'insegnante era tenuto a un metodo, non che usasse la violenza, non voglio essere equivocato, ma capace di affermarsi con un'energia che oggi apparirebbe o sospetta o da condannare. Ecco, questa è la sintesi estrema. Comunque con noi ci sono Riccardo Puglisi, che però insegna all'università e quindi è favorito, perché lì il timore verso il docente c'è un po' più... Beh, dai, Puglisi, professor Puglisi. Buongiorno. È un po' più... Lì il professore, come dire, può bocciare ed è sicuramente... Senz'altro. Assolutamente, meno male. No, certo, meno male, però ha un po' di... E poi, Puglisi, le presentiamo il nostro mitico Alex Corlazzoli, che oltre che giornalista è insegnante nelle scuole primarie, elementari per me. Corlazzoli, Alex, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti, ciao Alessandro, ciao Oscar. Tu, Alex, non l'hai mai messi bravi di qui, meno bravi di là, serie A, assolutamente, serie B, assolutamente, anzi se c'è qualcuno in difficoltà sta sicuramente più vicino al maestro, insomma, non al primo posto, ma più vicino al maestro, che tanto il maestro non ha la cattedra, sta in giro per i banchi, quindi... Però quello che diceva Oscar, cioè che adesso gli insegnanti sono molto derisi, sono anche aggrediti, diciamolo francamente, non è saltata totalmente la collaborazione tra genitori e insegnanti, perché si parteggia subito per i propri figli invece che per gli insegnanti. Questa cosa non è derivata dal fatto che, insomma, che questa perdita di autorevolezza si è perduta anche perché si va subito a vedere l'insegnante che si permette di alzare la voce, si permette di fare qualsiasi cosa? Per restare in termini calcistici, il calcio di rigore che accennavate prima lo segna proprio l'insegnante, e lo insegna l'insegnante che ha carisma. Il tema vero e centrale di questa questione è che oggi mancano sempre di più insegnanti carismatici. Cioè, non ce ne facciamo niente del laureato in matematica, bravo eccetera, che al concorso ha preso chissà quanto, se poi in classe non sa essere carismatico. Tu e Oscar, ma anche i nostri radioascoltatori, sicuramente ricordate Alberto Manzi. Alberto Manzi, quando ha iniziato la sua carriera, l'ha iniziata in carcere. Quando è entrato in quell'aula del carcere, non ha mica avuto facile, vita facile. Ma Alberto Manzi aveva un gran carisma e Alberto Manzi ha saputo conquistare quei ragazzi. Allora io dico, perlomeno sulla mia esperienza, sulla mia pelle, prima di fare il maestro ho fatto 6 mesi nelle strade di Palermo con i ragazzini di strada, ho fatto l'esperienza in carcere con gli adulti per 10 anni, e allora dico, lì ho imparato a fare il maestro più di qualsiasi altra scuola. Io prenderei la maggior parte di questi maestri, che li vedo spesso in difficoltà, poveretti, nel senso che non hanno risorse, non hanno la formazione per stare con questi ragazzi a volte difficili, a volte spregiudicati, ma li prenderei, li manderei 6 mesi a fare un'esperienza tra i ragazzi di strada di Palermo o di Scampia o di qualche altro quartiere, e poi tornano in classe. Poi se poi parliamo anche di genitori. Questo potrebbe essere, non so, Puglisi mi dà l'idea di essere uno che è un po' severo, lo è stato, e la severità la giudica una cosa positiva, però il limite poi è capire. Sì, no, certo, c'è un limite, nel senso, io innanzitutto sono d'accordo sul fatto che a scuola si formano le persone, si forma il capitale umano delle persone, le persone imparano a socializzare, quindi sinceramente i ghetti dentro una classe con i buoni e i cattivi mi sembrano abbastanza pessimi, soprattutto quando si fa verso, diciamo, a qualsiasi livello di istruzione, ma a maggior ragione quando si va verso i primi anni. Io penso che severi ma giusti sia un motto applicabile alla scuola, cioè sinceramente il troppo buonismo non mi piace per niente, anche sulle mie figlie che adesso hanno iniziato la prima elementare, io sono contrario al buonismo. Dall'altra parte l'insegnante e anche il professore all'università deve dare dei contenuti e poi deve anche captare le cose. A me di questa storia dei buoni e cattivi, gli asini nell'angolo eccetera eccetera, la cosa che mi colpisce di più è l'irrevocabilità che sembra di esserci tra le due categorie. Cioè, una delle cose più belle che c'è nell'insegnare è quando vedi l'accelerazione, cioè quelli che partono lenti, che capiscono di più, accelerano e poi diventano più bravi di quelli che erano partiti più bravi. Non capita sempre, ma quando capita è veramente una soddisfazione, assolutamente. Beh, insomma, l'asino che diventa gente. Ecco. Eh sì. l'asino che diventa genio, ecco, diciamo, lo dico, no, lo dico anche perché poi è una questione di io noto che è una questione di pigrizia, cioè nel senso io vabbè io no però c'è Oscar che sogghigna quando Oscar sogghigna così sta meditando adesso arriva il suo intervento stile Franco Baresi dei bei tempi adesso io lo so a gamba tesa perché sta ascoltando ma con quel ghigno di chi adesso dice adesso mi sistemo no ma come sistemo io sono curioso di sentire quello che dice Oscar, sono curioso. No, ma io penso che i contesti siano la cosa fondamentale. Però io continuo a dire, nella realtà che ho visto io, con i metodi di oggi, l'80% degli allievi che componevano la nostra classe di sballati sociali, perché di questo non voglio dare una descrizione come se fosse Soweto anni 60 o 70, però insomma c'erano problemi enormi. Ecco, io penso che se avessero usato i metodi che oggi per l'evoluzione del costume, dell'interazione individuale e sociale della figura dell'insegnante vengono adottati, io penso che l'80% di quelli delle classi non avrebbero minimamente prestato orecchio per un secondo. Quindi io penso che alla fine il contesto sfida a metodi completamente diversi. E sono convinto che in ambiti nei quali c'è purtroppo una implicita violenza nella gerarchia sociale, nell'esclusione, nella durezza dei rapporti e anche nelle mani che vengono alzate, perché da noi ci si menava di brutto detta fuori dai denti, oggi sarebbe uno scandalo tutti i giorni, all'epoca nessuno finiva sui giornali per quello che avveniva nelle scuole. Ecco, in contesti così purtroppo l'energia, la durezza e il rigore diventano necessari, non dico necessari, vanno misurati in maniera implacabilmente coscienziosa, però diventano un pezzo del discorso. Posso aggiungere un pezzo? Sì, come dice Oscar. Vado nella linea di Oscar su una cosa, io la vedo in termini anche contrattuali, nel senso che la severità diventa anche un modo per cui tu come insegnante o professore dai dei contenuti, come si dice, dai del materiale, dai dei contenuti, dai dei metodi eccetera eccetera, e poi non è che la molli lì nel senso che poi dice chi se ne frega di com'è il risultato finale, vai a verificare come le persone imparano, quindi la severità diventa un modo di mettere in piedi, di implementare il contratto tra l'insegnante e gli studenti, nel senso io vi do dei contenuti e voi mi restituite i contenuti nel senso che li imparate. Però attenzione, qui parliamo di autorevolezza alla fine, cioè la severità passa dal termine di un insegnante che sa essere autorevole. E quando è che un insegnante sa essere autorevole sia con i genitori sia con gli alunni? Perché l'insegnante deve essere autorevole con gli uni e con gli altri, anche di fronte a certi genitori che avvengono e alzano la voce. Se l'insegnante ha dalla sua la formazione, la capacità, la competenza, non deve aver paura di niente, diventa autorevole di fronte a quei genitori. E allora uno diventa autorevole quando c'è un rapporto di fiducia. Voglio tradurlo nella concretezza di tutti i giorni, della quotidianità di chi sta in classe. Se anche un mio alunno, e mi capita, viene a scuola e mi dice maestro oggi non sono riuscito a studiare, insomma davvero ieri per 3.000 motivi, ma c'è un rapporto di fiducia tale, è una sorta di sì contratto tra virgolette tra me e la classe, quello studio sicuramente per il martedì successivo, e studia, non c'è verso, arriva preparatissimo. Ho davanti i ragazzini che prendevano 5, hanno preso 5 per anni, quando poi ecco gli ho dato fiducia, quando c'è stato quel rapporto, quando l'autorevolezza del maestro è diventata quella, allora quel ragazzino da 5 è passato a 10. Alex, ti faccio due esempi. Sì. Primo esempio, quindi si sto dicendo 61-67, pensa un po', maestro che arriva al secondo anno, al terzo anno della mia scuola elementare in quel quartiere, un ragazzo, era giovane, di una sensibilità incredibile, portatissimo per farci fare le attività pratiche, disegno eccetera eccetera, così sensibile che non alzava la voce e non usava metodi eccetera. Quell'anno per la nostra classe è stato un fallimento totale, perché ad andargli dietro eravamo io e altri quattro, tant'è vero che il direttore dell'epoca dovette spostarlo, ed è tragico perché era evidente che era portatore anche di un'innovazione nel metodo, però è andata così. Secondo esempio, ci selezionavano, ogni settimana c'era l'elezione del capoclasse con la medaglietta. Cosa doveva fare il capoclasse? Delle cose che oggi mi fanno rabbrividire, cioè uno dei miei compiti, siccome finivo quasi sempre io, perché oltretutto dovevo rifarmi su mia madre che mi menava, quindi proprio una storia. Allora li mettevo in fila durante la ricreazione e dovevano stare nella mattonella in attesa in fila per due per andare in bagno. Appena mettevano mezzo piede fuori io li cacciavo faccia al muro, cioè delle cose mi rendo conto che oggi fanno rabbrividire, però questa roba purtroppo funzionava, non so cosa dirti. No, no, ma io aggiungo, oltre al don che lanciava le chiavi, c'era anche il mitico altro don che si presentava con la bacchetta, una delle due bacchette per suonare la batteria, e nessuno capiva mai perché una e non già, due suonava altro. Perché bastava una, ecco, non serviva. Però mi rendo conto, oggi sono cose, però no, temo che all'epoca abbiano non le vogliamo certo, giustificare, sì. Però esatto. ripartiamo no, dice bene Oscar, perché c'è uno dei problemi fondamentali che esiste anche oggi, che è comune agli anni, a quegli anni, anzi quegli anni di Oscar probabilmente era più facile risolverlo. Oggi un dirigente scolastico non sceglie le sue risorse nella maniera adeguata, spesso non lo fa, ma riempie dei buchi, manca l'insegnante in seconda elementare, mando quello lì, manca quello in quinta, mando quello là, senza sfruttare quello che è il tema delle risorse umane. Io da tempo dico che come in un'azienda c'è il responsabile delle risorse umane, nella scuola ci dovrebbe essere il responsabile delle risorse umane, quello certo. Che quando vede che un maestro non funziona in quinta, lo sposta, c'è niente da fare, lo prende, lo manda in seconda, lo manda in terza, lo manda dove funziona. No, no, ma è chiaro. Fermati un attimo, Alex, perché ripartiamo dopo la pubblicità. C'è un attimo con Alex Corlazzoli, Riccardo Puglisi, gli ascoltatori, ovviamente. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Guardaci qui, Oscar. Intanto ci sono tanti ascoltatori. Io sto mangiando una sfogliatella. Mica è un delitto questo. Lo dici con il tono che è stato sorpreso a fare chissà che. Devo ringraziare la nostra Chiara, ci ha portato le sfogliatelle così in diretta, direttamente da Napoli. Insomma, si poteva dire che sei stata a Napoli, se no adesso magari abbiamo svelato qualcosa. Esatto. Ha detto al fidanzato che stava a Como invece. Esatto, vabbè. Però insomma ci sono tanti ascoltatori, ci sono anche chi ci scrive: caro Oscar ha ragione, si chiama una cosa disciplina. Mamma mia. Oh, però dobbiamo capire mi qual sento è il palmo limite di mia madre sulla guancia. No, esatto, questo dobbiamo termine. Capire qual è il limite all'interno della scuola. Maurizio ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Allora la mia testimonianza, vabbè, che sia simpatica, io sono anch'io come Oscar degli anni 60 della scuola, no? Sì. Andavo a Gonzaga a Milano, quindi scuola religiosa molto dura, e niente, poi negli anni dell'università ho fatto supplente alle scuole medie, mm-hmm, e mi sono guadagnato un soprannome, Cancellino. Sì. Kid. Cancellino meraviglioso. Perché? Cancellino Kid, perché ai ragazzi che disturbavano usavo cancellare la lavagna, quindi impregnandolo di gesso, e poi glielo tiravo stampandogli e lasciandogli il marchio in sostanza del disturbatore. No, io rido, ma non so se dovrei ridere. Se ma allora sta cosa, in effetti, ascoltandovi mi è tornata alla mente, l'avevo dimenticata. Sta cosa però era molto simpatica per gli studenti, pare, perché ero diventato un po' un mito di questa scuola media. Per la mira o per che cosa? Per entrambe le cose. Entrambe le cose, sì, esatto. Perché poi i disturbatori venivano additati perché erano sporchi di bianco, no? Durante l'ora di... durante il quarto d'ora di... No, ma poi anche il cancellino implica nessun tipo di lesione o danno fisico. Esatto. Prima si parlava di mazzi di chiavi, quindi esatto. Stiamo parlando... Ma Puglisi siamo alla lettera scarlatta, però. Ma dai, è amovibile. No, ovviamente è amovibile. Scherzando. No, Puglisi, qua siamo alla testimonianza. No, adesso io c'ho il mio ricordo. Io ho fatto il foscolo a Pavia, avevo una professoressa unica lì a Marchino, Buonanima, che era severissima, e io mi ricordo il giovedì, cioè io praticamente avevo un pomeriggio notte terrificante, perché io tutti i santi giovedì avevo da preparare venerdì notte io avevo da preparare una versione di greco, una versione di latino, esatto, una lezione di storia e geografia, sì, e un tema, esatto. Quindi io finivo regolarmente, non finivo prima del 3 di notte, lo so. Ma però quella parte lì è rilevante, cioè nel senso che serve, questo chiaramente è il liceo, però sono ben contento e credo nel motto inglese no pain no gain, cioè nessuna sofferenza, nessun guadagno dal punto di vista appunto di questo contratto per cui tu pretendi le cose e dai dei contenuti e poi verifichi e dai fiducia al fatto che la persona ce la possa fare, cioè senza arrivare a livelli francesi dove sono feroci e c'è una competizione eccessiva. Però io mi ricordo a Londra, alla London School, i miei colleghi francesi erano iper competitivi, forse anche troppo, però era una parte diciamo forse anche eccessiva, però dall'altra parte c'era questa idea del si può fare, cioè si può fare, c'è una cosa troppo difficile, vai chi se ne frega, anzi proviamoci, buttiamo la facciamo, questa cosa deve esserci, altrimenti siamo messi male. Paolo da Varese, perché poi Corlazzoli ha detto che qualcosa sui genitori forse andrà detta. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io non sono molto d'accordo con voi, con Oscar, eccetera, anche perché secondo me noi facciamo un ragionamento più che altro da adulti, no? E stiamo ripercorrendo quello che abbiamo passato. Io ho 55 anni, mi vedo, no? Diciamo quando andavo a scuola, prendevo due treni per andare a scuola, eccetera. Adesso il mondo è completamente cambiato, cioè gli adolescenti non sono come eravamo noi quando eravamo ragazzi, sono completamente cambiati e quindi secondo me bisognerebbe avere una logica completamente diversa. Cioè io sono più d'accordo con l'Alex, nel senso che essenzialmente gli adolescenti capiscono se davanti hanno un qualcuno che gli possa dare qualcosa oppure no, cioè capiscono uno quando è autorevole oppure autoritario. Quindi il discorso qual è? È che praticamente tanti insegnanti, c'è la differenza, io sono un insegnante o io faccio l'insegnante, cioè uno che è un insegnante perché se lo sente, uno che fa l'insegnante perché essenzialmente non ha trovato nient'altro davanti, quindi essenzialmente cosa fa? Va lì e passa sul la, la formazione di cui no, ma infatti anche mi inginocchio di fronte a questo, alla tesi del direttore scolastico e di Alex, nel senso che premetto e lo ribadisco, il contesto è tutto. Detto questo, ho ex compagni di scuola, poi di università, poi specializzati, che hanno fatto dell'insegnamento nelle scuole primarie la loro scelta nella vita. A me verrebbe voglia di dire missione, ma lo dico nel senso che sono d'accordo con voi tra la differenza tra fare insegnante e essere insegnante. E gli è capitato nel giro delle assegnazioni, soprattutto nella parte iniziale della carriera, di essere assegnati in scuole e in parte d'Italia o in quartieri di grandi città, meno in provincia questo problema c'è, ma in quartieri di grande città ha fortissima problematica di inserimento, integrazione, reddito, provenienza di paesi degli allievi, in cui la componente comunque di, tra virgolette, la vogliamo chiamare energia, non so com'è, ecco, era comunque fondamentale, perché l'eco restituito dagli ambienti sociali di estrazione dei loro giovanissimi ragazzi era un eco in cui una componente di forza eccessiva purtroppo dominava. E allora io quello dico, in altre parole, e non equivocatemi, se la generazione dalla cui esco io al massimo ha imparato a imbrattare purtroppo, troppo in quegli anni, le pareti delle città per la politica, questo avvenne negli anni 70. Ma a nessuno di noi passava in mente di fare i writers e di coprire qualunque spazio pubblico di disegni. Adesso ci sarà una componente fortissima di espressione artistica, non lo metto in dubbio, però voglio dire, ci sono anche delle cose che sono al di là di quello che secondo me è un giusto criterio di self-restraint della propria espressività. Queste cose che sono saltate un po', sono saltate anche perché nella differenza dei contesti sono saltate alcune maniere del tutto non violente, del tutto non eccessive, ma di articolarsi in maniera adesiva a degli ambienti, alle situazioni in cui ancora oggi la forza, forza non è la forza fisica, sto dicendo, ma la forza è una componente dell'autorevolezza. Purtroppo, ecco, io ne resto convinto, nell'adattabilità dei tempi, dei codici e delle missioni. Alex, questi genitori, che dobbiamo dire a questi genitori, fermo restando che un discorso generale non si può fare ovviamente. No, mai si può fare un discorso generale, tra l'altro io invece, a differenza vostra, insomma, perché tutti e tre avete avuto esperienze con degli insegnanti rigorosi, fisici, severi, eccetera. Io ho avuto la maestra Teresa che invece rincorreva in maniera bonaria tra i banchi, io sarei stato uno di quei ragazzini oppositori provocatori, insomma, come verrebbero definiti oggi, quindi figuriamoci. Però oggi il tema dei genitori è quello in realtà di coinvolgerli, E ancora una volta vi faccio un esempio concreto, perché poi un giorno ci organizziamo e voglio farvi provare questa esperienza di stare in classe. Facciamo un attenti a quei due al mattino in una mia classe, magari. Sì, bella idea. Mi piacerebbe questa cosa, insomma, perché poi bisogna starci. I genitori vanno coinvolti. E allora vi faccio un esempio più concreto: quando vengo in viaggio di istruzione a Milano, partendo da Casaletto Vaprio, su un paese in culo al mondo, col treno, non col pullman, quindi treno, metro, tram, quindi tutti questi mezzi, è chiaro che lì ci deve essere i bambini che rigano dritti, perché se me ne scappa uno io ci rimetto la pelle, insomma, sì. Vado a finire in carcere. Certo. Cosa faccio oltre a esercitare quello che è il mio sguardo, perché sta nel mio carisma, quando io non ho bisogno di urlare? Sono ridicoli gli insegnanti che urlano di non urlare, pensate un po', veramente un paradosso. Vengono con me i genitori in gita. Ora io tra un mese andrò a Gualtieri, a Parma, partendo sempre dalla sfigata stazione di Casaletto Vaprio, e ci andrò in treno e con me vengono i genitori. Perché? Al di là della furbizia del maestro che se li porta così gli dà una mano, ma al di là della mia furbizia c'è anche il fatto che li coinvolgo in questa questione educativa. Il genitore che si sente coinvolto capisce il figlio in quel contesto, mm-hmm, e si rende conto di cosa vuol dire fare il nostro mestiere. Questo è il trucco. È un trucco molto efficace. Non diciamolo troppo ai genitori che ti ascoltano, che li porti anche per sgravarti. Perché sennò... Comunque, Massimiliano da Udine scrive che il mio professore di matematica alle superiori, tra l'altro fratello di un calciatore che non citiamo, adoperava lo stesso metodo del cancellino. Che devo dire, è un metodo che io non conoscevo. Cancellino chiede un professore? Non l'ho capito io, perché ha fatto il bidello. Ha fatto il supplente quando era all'università. Eccolo lì, mettiamogli il licenziato. Dai, salutiamo Riccardo Puglisi, Alex Corlazzoli, grazie se stati con noi, caro Oscar, ci troviamo domani. Se non succede niente domani, chissà se sarà la giornata dell'ira. Ricordiamo che tra le tante martiri di oggi è anche Santa Claudia, perché ho ricevuto dei messaggi di protesta, e quindi ricordiamo anche Santa Claudia. Però mamma mia, se io dovessi fare l'elenco di tutti i giorni non basta la trasmissione. Abbracci a tutta la Claudia, a domani.